Radio 24 Reportage. Tutti in taxi contro Monti, di Alessandra Schepisi. Gentile cliente, siamo spiacenti, ma a seguito di un'assemblea spontanea dei tassisti non siamo in grado di assicurare il servizio. Bastano più le promesse del sindacato. Sono solo promesse. Io ho un'idea che adesso vi spiego. Bisogna fare una manifestazione molto tosta. Siamo in piazza per rivendicare i nostri diritti, la nostra dignità. In 4 anni i media hanno voluto far credere all'opinione pubblica che noi siamo una categoria di facinorosi, di banditi. Siamo venuti a difendere il nostro diritto al lavoro, la nostra dignità, a salvaguardare il nostro futuro. Non capisco qual è il nostro problema, cioè qual è il problema. Determiniamo noi la crisi economica, il tassinaro, il tassista determina la crisi economica. Noi, padri di famiglia che ci hanno il mutuo di casa, che si svegliano alle 5 del mattino, gente che a 70 anni ancora sta sopra una macchina, spigna la frizione, con i dolori alla schiena, noi siamo la lobby dei potere. Noi stiamo difendendo il posto di lavoro fino alla morte. Le nostre famiglie. Sì, comunque se va avanti oltranza, perché se tu da domani non potresti dar più da mangiare alla tua famiglia, che faresti? Scenderesti in piazza e te ne fregherebbe niente? È una questione di sopravvivenza. Questa adesso è diventata una questione di sopravvivenza. O loro capiscono che non siamo sicuramente noi la categoria a cui d'addosso, perché siamo una categoria satura, o se no la guerra è guerra. Tassisti contro tutti, contro il governo, contro le liberalizzazioni, contro la stampa, contro l'opinione pubblica e anche contro se stessi. In tutta Italia per giorni è andata in scena la grande rivolta delle auto bianche. Blocchi del traffico, presidi, assemblee spontanee, bombe carte esplose sotto Palazzo Chigi, auto danneggiate, risse tra colleghi, fischi, insulti. Una rivolta fomentata soprattutto dalla base e che in alcuni momenti è sfuggita di mano agli stessi sindacati, che hanno ripetutamente chiesto ai tassisti di rientrare in servizio, ma che il più delle volte sono rimasti inascoltati. Una licenza, un turno, una vettura, un territorio. Questo è lo slogan che i tassisti di tutta Italia hanno ripetuto in coro contro l'intenzione del governo di aprire il mercato e renderlo più competitivo, così come avviene nel resto d'Europa, in Francia, in Germania, in Spagna e nel Regno Unito, prevedendo la possibilità di più licenze in capo ad uno stesso soggetto, licenze che moltiplicandosi ovviamente perdono di valore. Il problema è che noi, la maggior parte di noi, queste licenze le hanno pagate, hanno avuto un costo, un caro costo, ci stiamo pagando il mutuo e le spese da sostenere sono tante. Io personalmente ci pago come spese circa 90 euro al giorno. Quello che resta è il guadagno. Quanto resta di guadagno, più o meno? Resta poco, possono restare anche una ventina d'euro. L'idea di regalare una licenza ai tassisti come compensazione? L'idea può andare bene fino a un certo punto, nel senso che in questo caso si raddoppiano. Raddoppiandosi il lavoro diminuisce. Se io c'è una giornata che faccio 90 euro, ci vado in pari per le spese, se le licenze si raddoppiano che faccio? 40-50 euro? Il mutuo chi me lo paga a fine mese? Considerando che poi non c'è lavoro per i giovani, io sono laureata in lettere, ho comprato la licenza del taxi perché il lavoro non c'è, ho fatto un investimento, mi hanno aiutato i miei genitori, ma lo sforzo è notevole. Se il guadagno, l'incasso si dimezza, come faccio? Chi me lo paga il mutuo? Abbiamo preso un mutuo in banca per comprare la licenza e se ci levano il lavoro, come ci ripaghiamo questi debiti? Noi chiediamo, primo, osservanza scrupolosa degli orari di lavoro con abolizione degli straordinari. Secondo, equipaggiamento speciale per il lavoro notturno. Terzo, ai posti di stazionamento taxi per alleviare la noia in attesa di chiamate vogliamo tavola calda, discoteca, cinema e tabaret. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Très bien, tout suit, madame. Merci, monsieur. Rien, madame, n'est pas de quoi. Mais vous parlez très bien français. Je parle français, comme marche espagnol, madame. Ah là là là, merci. Ma come funziona nel resto d'Europa? Un'indagine europea chiamata Eurotest Taxi 2011, condotta da 18 automobile club del vecchio continente, ha messo a confronto tariffe e qualità del servizio taxi in altrettanti 18 paesi. Si scopre allora che se per una corsa tipo di 7 km, inclusi 5 minuti di coda a causa traffico e un bagaglio, si spendono a Zurigo 31 euro, a Oslo 25 e a Rotterdam più di 22, a Roma, per la stessa corsa, la tariffa scende a 11 euro e a Milano a 12. Le più basse sono in Portogallo e in Spagna. Dunque, in Italia le tariffe sono contenute, a fronte di costi di gestione che, secondo un'altra ricerca condotta dalla CGA di Mestre, sarebbero invece tra i più elevati d'Europa. Ma non ci sono solo le tariffe, a contare anche la qualità del servizio offerto. Il presidente dell'ACI, Enrico Gelpi. I dati più importanti sono quelli che riguardano le nostre due maggiori città, Milano e Roma. Milano il servizio taxi è risultato mediamente apprezzato dagli utenti. A Roma un po' meno, devo dire. Roma in effetti, rispetto anche a una classifica europea, ha dimostrato qualche limite al servizio. Soprattutto è stato lamentato il fatto dell'allungamento del percorso rispetto alla destinazione. Ecco, forse anche una certa spericolatezza dei tassisti. Sì, una spericolatezza, quindi una guida molto, come dire, brusca, che non ha messo a suo agio, diciamo, i nostri rilevatori. Il problema è che è un servizio molto differenziato, perché anche le vetture che vengono utilizzate molto sono recenti, sono più confortevoli. Per esempio d'estate c'è il problema dell'aria condizionata, che molti non ce l'hanno oppure non la usano. Quindi insomma migliorare un po' anche la qualità dei mezzi. E poi soprattutto anche dell'accoglienza, perché spesso i taxi ovviamente vengono usati dai turisti, no? Quindi da quelli che anche degli stranieri, quindi la conoscenza per esempio dell'inglese, insomma delle lingue, e poi appunto un modo di porsi che venga apprezzato di più di quanto non lo sia oggi, proprio per dimostrare ancora meglio, diciamo, l'accoglienza al turista che viene nelle nostre città e ha necessità di muoversi. Vetture poco pulite, conducenti spericolati e turisti a volte raggirati. Insomma, i taxi costeranno pure poco, ma come qualità del servizio l'Italia non se la cava molto bene. Tutto ciò è confermato dalla ricerca annuale condotta da Hotels.com, che piazza in testa alla classifica i famosi cab di Londra, primi in pulizia, in accoglienza, in sicurezza e in conoscenza delle strade. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Nella City 23.000 cab non sono a numero chiuso e sono soggetti a norme rigidissime. Ogni tassista diventa libero professionista dopo ben 3 anni di studi e il superamento di un complesso esame, il famigerato The Knowledge, in vigore dal 1865, che richiede la conoscenza di qualcosa come 25.000 strade della capitale, oltre che l'abilità a trasportare passeggeri a destinazione nel minor tempo possibile. Ma sulla necessità di un esame molti tassisti romani sembrano essere d'accordo. C'è una preparazione sul servizio delle strade e delle vie. Non basta il satellitare adesso. Ma no, ma cioè satellitare serve esperienza, non è il satellitare, se dà una patente così a uno professionale e si mette a fare il tassista. Come potrebbe essere invece migliorata la qualità del servizio? Quali i punti su cui lavorare? Il primo è fortemente legato e vincolato dalla viabilità delle singole città. Sicuramente se si fornissero città di ulteriori corsie preferenziali e ci si adoperasse perché queste venissero rispettate, il cittadino avrebbe una percezione del prezzo della corsa molto inferiore a quella che attualmente ha. E poi per ciò che riguarda invece ciò che fanno i tassisti singolarmente, noi sappiamo che un tassista, se ha la possibilità economicamente parlando di investire sulla sua vettura, abbiamo anche dei film simpatici, uno è stato quello di Renato Pozzetto, se ben ricorda, dove il tassista diventava addirittura geloso, maniaco del suo lavoro e della sua vettura. Con quelle scarpe infangate mi sporca tutta la moquette. Ma che è colpa mia se è piovuto? Ma non si apre! E per forza ho messo la sicura. E la sblocchi! E lei si pulisca le scarpe. Il tassista è questo, è una persona che fa del suo lavoro il mezzo di sostentamento, ma soprattutto la sua passione. Taxi, taxi, il mio amore finito lì. Avete ascoltato Reportage. Suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.